Incontri di Gianfranco Fabi. Benvenuti al nostro incontro di oggi, che comincia con questa canzone dei Beatles che dà il benvenuto a Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison. Perché i Beatles? Li ricordano qualcosa, dottor Quadrino? Beh, insomma, siamo stati tutti giovani in quell'epoca e quindi erano ripi, poi mi piace particolarmente. Cosa ha fatto nel 68? Io mi stavo laureando. Era all'università? Sì, esatto, ero all'università, ero stato, qualche anno prima sono stato a Londra, per la prima volta abbiamo scoperto Londra quando tutti la scoprivano e i Beatles erano appena lanciati, quindi sono stato nel 62-63 la prima volta a Londra e questa canzone è piena di ricordi. Cosa è cambiato rispetto a quegli anni? Un cambiamento di fondo, 50 anni fa, 40 anni fa, c'era un'Europa, un'Italia forse un po' più vivace, un po' più dinamica, un po' più esuberante, forse anche troppo in certe condizioni. Ma si vede tutto con occhi diversi. Io poi ho vissuto a Londra negli anni 90, è una città che amo. Diciamo che il mondo che allora ci appariva era un mondo che sembrava alla vigilia di grandi cambiamenti che poi in parte ci sono stati, in parte non ci sono stati. Ecco, lei è entrato subito nel gruppo Fiat, è stata una scelta, un'opportunità, un'occasione? No, più che una scelta, sì, è stata un'opportunità, perché in realtà io dovevo rimanere all'università come ricercatore, poi già allora non c'erano fondi per l'università e era mancato mio padre da poco, quindi insomma ero nella necessità di lavorare e c'era questa offerta della Fiat, pensavo che fosse una cosa temporanea e poi ci sono rimasto una trentina d'anni. Beh, tutte le cose decise in Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio. Difatti. Comunque ha cambiato molte posizioni, è stato nei primi anni anche assistente di Cesare Romiti. Certo, cosa ricorda? Erano anni abbastanza difficili. Beh, erano proprio gli anni duri, gli anni della marcia dei 40.000, erano gli anni in cui c'era De Benedetti, Umberto Agnelli, l'avvocato Agnelli e poi Romiti che è diventato l'amministratore delegato unico proprio in occasione della marcia dei 40.000. Sono stati anni molto formativi, molto difficili. Anche in quel momento si pensava che tutto sarebbe cambiato, molto è cambiato, però forse anche qua c'è stato un cambiamento che non ha portato poi tutte le cose buone che si pensava avrebbe portato. Beh, la Fiat ha vissuto, come un po' il paese, molte fasi di crisi, le ha superate negli anni 70, le ha superate negli anni 90, le ha superate anche in questi ultimi anni. Secondo lei, adesso che la vede un po' dall'esterno, la Fiat di oggi è una Fiat, la Fiat di Marchionne, è una Fiat che ha ritrovato la capacità di sfidare appunto i mercati internazionali? Beh, siamo proprio nel mezzo di una enorme sfida e faccio veramente il miglior augurio a Marchionne e alla Fiat, perché l'Italia ha bisogno della Fiat, la Fiat ha bisogno dell'Italia. Direi che la Fiat è sempre stata divisa a metà, da un lato la Fiat Auto e dall'altro il resto. Il resto aveva degli anni buoni, degli anni cattivi, però insomma si è rafforzato nel tempo, ha assunto una dimensione internazionale. Sto parlando dell'Iveco, sto parlando della New Holland. Lei è stato responsabile dell'Iveco per qualche anno. Della New Holland proprio a Londra, ho lavorato all'Iveco. Sono stato nella componentistica, direi che sono settori che hanno una loro valenza a livello internazionale indiscussa. Poi c'è l'auto è un settore molto difficile, un settore dove c'è ancora troppa concorrenza internazionale, ci sono troppi attori, nessuno vuole rinunciare ad avere una società di bandiera, diciamo così, perché c'è molta occupazione, c'è un grandissimo indotto attaccato all'automobile. E quindi anche se ci sono delle crisi che di solito portano alla morte delle aziende, poi vediamo che di grandi morti non ci sono stati in Europa, perlomeno tutti continuano in qualche modo a sopravvivere nonostante le crisi. Oggi la Fiat Auto si è associata alla Chrysler, ha una dimensione internazionale che non ha mai avuto, c'è un Sud America che va molto bene. Ci sono prospettive in Asia con la Cina, cioè con la Russia. Quindi... Ma la domanda che tutti si fanno è: a questo punto la Fiat resterà comunque in Italia? Non sono titolato per poter rispondere a questa domanda, ma mi sembra inconcepibile una Fiat senza Italia e forse anche un'Italia senza Fiat. Ecco, però lei opera in Italia, Edison opera in Italia, allora vediamola da un'altra parte. Questo paese è un paese in cui fare industria resta comunque complesso, resta comunque difficile. Che cosa si può fare per rendere più facile l'industria e anche operare in settori importanti come quello dell'energia dove opera Edison? Che cosa si può fare per migliorare la competitività delle imprese italiane? Diciamo che è difficile ma anche appassionante, perché poi in fin dei conti stiamo parlando della quinta potenza industriale del mondo, certo. Che ha un tessuto di piccole e medie aziende di prim'ordine che competono su mercati internazionali e che dimostrano la competitività complessiva del sistema industriale italiano. Indubbiamente ci sono molte cose che potrebbero essere migliorate, dalla flessibilità del mondo del lavoro alla pubblica amministrazione, all'efficienza complessiva del sistema, alle infrastrutture. Bisogna mettere mano a queste cose e valorizzare invece i grandi punti di forza della competitività del sistema italiano, che pure esistono. Ecco, Edison opera nel settore elettrico, un settore che è stato liberalizzato, un settore in cui forse la liberalizzazione ha operato in maniera più efficace. Qual è il bilancio delle politiche di liberalizzazione, in particolare nel settore elettrico in Italia? Ma molto è stato fatto, direi che c'è ancora parecchio da fare per parlare di una liberalizzazione totalmente compiuta sia nel campo elettrico che nel campo del gas, però molto è stato fatto, si partiva da una situazione di totale monopolio, l'Italia ha avuto il coraggio di fare le Genco, che erano dei pezzi di Enel messi in vendita, l'Enel così ha fatto una cura dimagrante, ma è stato poi a beneficio dell'Enel stessa, perché questi soldi sono stati poi ben impiegati in un'espansione internazionale che adesso ha dato all'Enel una dimensione di primissimo ordine a livello internazionale. E ha permesso nello stesso tempo a nuove aziende di entrare sul mercato. Per la Edison si tratta di un grande ritorno. La Edison, certo, nasce nel 1882, è stata la prima azienda elettrica non solo d'Italia ma d'Europa, la seconda del mondo, quindi abbiamo una grande tradizione da far valere e da onorare, e penso che l'abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo fatto molti investimenti, abbiamo portato la nostra azienda a essere la seconda azienda elettrica del paese, abbiamo investito molto e speriamo adesso di poter cogliere dei frutti. Il momento del mercato è difficile, ma sicuramente avremo delle soddisfazioni. Ecco, in pratica per alcuni impianti è stato un ritorno, erano privati della Edison prima, sono passati per qualche anno all'Enel, poi sono tornati alla Edison. Beh, sono quelli che sono tornati, erano dei vecchi impianti che sono stati completamente rifatti e adesso abbiamo una struttura di produzione sia per nuovi investimenti, come si dice, da Prato Verde, sia per revamping, cioè rifacimenti di impianti comprati dall'Enel, direi che abbiamo tutte centrali nuove, sono cicli combinati dell'ultima generazione, di grande efficienza e poco inquinanti. Ecco, questo è un punto, mi sembra, su cui Edison vuole insistere, quello di una gestione compatibile, come si dice adesso, rispettosa dell'ambiente. È possibile fare energia rispettando l'ambiente? Ma certo che è possibile, la nostra è una industria che ha sicuramente un impatto con l'ambiente, quindi bisogna cercare di avere rispetto e usare tutti gli accorgimenti. Innanzitutto ci sono le energie rinnovabili, noi stiamo puntando molto su questo, l'eolico, il solare, le biomasse, sono modi di produzione dell'energia che oggi sono molto costosi, lo sappiamo, e in qualche modo poi i consumatori pagano questo extra costo, perché poi si parla di incentivi, certo, alle rinnovabili, ma non è che lo paga lo Stato, lo pagano poi le bollette dei cittadini. È uno scotto che bisogna pagare, però insomma ci sono degli obiettivi della comunità europea di arrivare al 20% di energie rinnovabili di qua al 2020, la strada è ancora lunga, ma tutti stanno investendo e noi stiamo facendo la nostra parte. Quindi più rinnovabili nel nostro futuro sicuro. E poi c'è le altre forme di produzione dell'energia elettrica. Noi tra le varie forme abbiamo scelto quello dei cicli combinati a gas, che di gran lunga sono i meno inquinanti. Mi riferisco in particolare al carbone, che certo oggi c'è il carbone cosiddetto pulito, perché prima era più sporco, certo, ecco. Però il guaio del carbone che emette il doppio di CO2 rispetto a un ciclo combinato a gas. Quindi il gas è un po' la frontiera che voi avete di fronte, anche per diversificare le fonti di approvvigionamento. Difatti l'altra grande attività della Edison è quella delle forniture, della ricerca e produzione del gas e del petrolio. Perché il gas, perché noi consumiamo molto gas al nostro interno e perché anche il mercato del gas è un mercato molto interessante, anche questo era un mercato sotto monopolio che si sta aprendo e al quale noi partecipiamo e abbiamo fatto molto per l'apertura. Buongiorno e buona domenica ancora a chi ci ascolta. Riprendiamo il nostro incontro con Umberto Quadrino, amministratore delegato di Edison. Nella prima parte abbiamo ricordato un po' gli anni dei Beatles, con cui abbiamo riaperto anche questa seconda parte. Abbiamo fatto un po' una panoramica del mercato dell'energia, dei problemi che ha di fronte l'Italia sul fronte dell'energia. Edison è la seconda società che opera nel campo energetico. Parlavamo del gas, il gas su cui Edison sta puntando anche per diversificare un po' le sue fonti. Avete avuto un po' di difficoltà per aprire questo rigassificatore, le polemiche sui rigassificatori sono sempre molto forti. Beh, c'è stato un iter che è durato quasi 10 anni per arrivare dai primi discorsi alla realizzazione del rigassificatore. Ci sono stati dei momenti in cui i nostri partner del Qatar si sono rivolti alle autorità italiane dicendo che erano pronti a portare il rigassificatore che si stava costruendo in Spagna in altri paesi, perché non capivano come mai ci volesse tanto tempo per ottenere le autorizzazioni. Poi le cose, grazie a Dio, si sono raddrizzate e abbiamo fatto questo grande investimento che oggi fornisce 8 miliardi di metri cubi di gas all'Italia, che più o meno il 10% dei fabbisogni italiani. Quindi funziona adesso? Funziona perfettamente, è il primo al mondo in mezzo al mare, perché l'abbiamo fatto in mezzo al mare. A Rovigo, no? A Rovigo, 17 chilometri dalla costa, proprio perché sulla costa non si riuscivano a ottenere i permessi di costruzione, quindi abbiamo costruito una specie di isola artificiale al di sopra della quale c'è una fabbrica vera e un molo a cui attraccano le navi da un anno, adesso in operation. Quindi arrivano queste navi dal Qatar, è una delle fonti. Poi state operando anche sul fronte dei collegamenti con i tradizionali gasdotti. Certo. Noi importiamo già oggi dalla Libia, dall'Algeria, dalla Russia e dal Mare del Nord, e stiamo lavorando poi su nuovi gasdotti, in particolare due grandi progetti, uno che riunirà l'Algeria attraverso la Sardegna, la prima volta che il gas naturale arriva in Sardegna, e poi attraverso tutta la Sardegna, attraverso il terreno, e arriverà in Toscana. L'altro, ancora più ambizioso, un progetto che collegherà l'Azerbaigian, quindi Mar Caspio, Georgia, Turchia, Grecia, Italia, attraversando il Mar Adriatico all'altezza di Otranto. Il progetto si chiama ITGE, Interconnessione Turchia, Grecia, Italia, e stiamo lavorando alacremente per battere la concorrenza e ottenere la fornitura di gas a zero. Ecco, il rapporto all'interno dell'Italia sul fronte appunto della divisione un po' dei compiti, perché sappiamo che come sul fronte dell'energia elettrica c'è un colosso ancora presente come Enel, sul fronte del gas c'è un colosso come l'Eni, che mi sembra che opera. Quali sono i rapporti tra di voi? Non c'è dubbio che Enel e Eni siano i leader del mercato. Io dico sempre che per essere dei leader bisogna meritarsi la leadership, e quindi essere lungimiranti abbastanza per capire che il mercato è diverso da quello di anni fa, è aperto, c'è la concorrenza, e quindi bisogna preservare le condizioni perché la concorrenza si possa sviluppare, come stiamo facendo insieme in questi anni. Quindi in questa prospettiva diciamo ci sono più colloqui di fondo, ci sono più prospettive di crescita complessiva, anche perché il mercato comunque sta crescendo, ha bisogno di rifornimenti energetici, ha bisogno di sicurezza energetica. Sì, guardi, sul mercato del gas stiamo vivendo una trasformazione epocale a livello internazionale, mentre il mercato elettrico è un mercato ancora sostanzialmente nazionale, perché ci sono le Alpi, perché ci sono i Pirenei, perché ci sono gli stretti del nord, che separano i vari mercati, e quindi collegare i vari mercati non è facile, ci vogliono degli elettrodotti che hanno una capacità di trasporto limitata, per cui il mercato italiano elettrico è ancora abbastanza isolato dal resto dell'Europa e lo sarà anche in futuro. Beh, per il mercato del gas non è così, il gas è una molecola che si trasporta attraverso dei gasdotti e quindi il mercato è molto più globale, si può liquefare e si può mettere su una nave, quindi portare in giro per i continenti. Cosa è successo sul mercato del gas internazionale proprio nell'ultimo periodo? È cambiato tutto, perché fino a qualche anno fa la quantità di gas trasportata era grosso modo pari alla domanda e si facevano nuove infrastrutture di trasporto, quindi nuovi gasdotti, a fur et à mesure che la domanda cresceva. Se si prevedeva che crescesse la domanda, beh, si faceva un nuovo gasdotto. Con l'apertura dei mercati si è creata una situazione dove i nuovi entranti hanno voluto costruire delle proprie infrastrutture per non dipendere da chi aveva in mano le infrastrutture. Quindi è aumentata l'offerta di infrastrutture. Prendiamo il caso dell'Italia, noi abbiamo fatto il terminale di Rovigo, 8 miliardi di metri cubi, e l'ENI ha potenziato i gasdotti dall'Algeria e dalla Russia. E complessivamente, quindi nel giro di 5 anni, è aumentata la capacità di importazione di gas in Italia di 20 miliardi di metri cubi. Tanta di domanda, beh, troppo è difficile dirlo, tutto è relativo alle prospettive della crescita degli anni futuri, però 25% di offerte in più, beh, proprio nel momento in cui è scoppiata la crisi mondiale economica che conosciamo, che ha fatto scendere la domanda e l'ha fatto scendere dell'8%, puoi immaginare cosa è successo sui prezzi. Quindi un po' di beneficio per i consumatori c'è stato. Sicuramente per i consumatori c'è stato un beneficio, ma chi si è trovato in mezzo a questa situazione, come gli importatori, noi, si trova in una situazione molto sgradevole, perché il prezzo di mercato è sceso, ma il prezzo di acquisto del gas è collegato a delle formule che sono collegate al prezzo del petrolio che sta salendo. Quindi noi abbiamo costi di acquisto in crescita e prezzo di mercato che è sceso profondamente, quindi contratti da rivedere. Ecco, sì, questo è sicuramente un problema per voi, posso capire le logiche industriali e anche finanziarie che può comportare questo essere un po' tra l'incudine del martello. Però guardiamo ancora dalla prospettiva dei consumatori, magari delle famiglie. Voi vi siete aperti come Edison anche al mercato delle famiglie negli ultimi anni. Le famiglie possono guadagnare da questa liberalizzazione dei mercati. Quello che è successo è proprio la dimostrazione che la concorrenza favorisce poi il consumatore finale. Se fossimo rimasti nella situazione in cui le infrastrutture venivano fatte solo nella misura in cui la domanda aumentava, beh, non ci sarebbe stata questa situazione di sovrapproduzione che in questo momento nuoce, diciamo, agli importatori, ma sicuramente ha portato dei benefici al consumatore finale, e lo stesso nel settore elettrico. Qui tornerei un po' a guardare un po' questa Italia che stenta molto a riprendersi. C'è stata proprio nei giorni scorsi la redazione della giornata del risparmio del governatore della Banca d'Italia ha sottolineato il tema dell'occupazione, di una crescita che non riesce a creare occupazione, anche perché è una crescita molto faticosa. Anche voi come Fondazione Edison, per esempio, avete messo a punto dei programmi, dei progetti molto concreti per sostenere l'industria. Ma vede, anch'io vedo dal lato del consumo dell'energia, che è un indicatore formidabile per sapere se l'economia riprende, vedo ancora una ripresa molto lenta. È vero che si consuma di più dell'anno scorso, ma stiamo parlando di 1% forse in più dell'anno precedente, quando nel 2009 il consumo di energia elettrica era caduto di oltre il 6%. Quindi siamo ancora al 5% al di sotto del livello precedente. E tenuto conto che poi le famiglie consumano sempre la stessa quantità di energia, vuol dire che l'industria è scesa di oltre il 10%. Ed è un dato enorme. Dal dopoguerra ad oggi non era mai successo un calo così sensibile della domanda di energia elettrica. Cosa si può fare per incentivare? Sicuramente dare maggiore competitività al sistema. Vediamo che la Germania è ripartita, è l'unico paese europeo che ha una crescita sostenuta. E cos'è che sta tirando questa economia, che sta provocando questo sviluppo dell'economia tedesca? È l'esportazione. E in fin dei conti poi l'esportazione è un po' la cartina di tornasole della competitività di un sistema. Se riesci a esportare vuol dire che le tue merci sono più competitive rispetto a quelle degli altri paesi, e lo sono o perché i prezzi sono convenienti, e forse questo non è più il caso né dell'Italia né della Germania, o perché il contenuto delle tue merci è talmente innovativo e competitivo che anche se i prezzi sono alti la domanda c'è lo stesso. E forse questo è il caso della Germania, ed è dove il sistema industriale italiano deve indirizzarsi. Che comunque è un sistema industriale che ha dei punti di forza, è sempre stato un sistema innovativo, un sistema flessibile, un sistema aperto. Bisogna ritrovare questi punti di forza cercando di limitare i punti di debolezza. Ecco, l'approvvigionamento energetico era considerato un punto di debolezza, possiamo considerarlo adesso tra i punti che possono sostenere la crescita? Potrà l'energia essere in futuro un punto di forza? Oggi forse non lo è ancora, ma è una questione di mix energetico. Noi oggi produciamo l'energia elettrica con un determinato numero di fonti di produzione, soprattutto cicli combinati a gas, un po' di carbone, un po' di rinnovabili, non abbiamo il nucleare. Altri paesi hanno un mix differente dal nostro, hanno più carbone del nostro, vecchie centrali che costano diciamo molto meno delle centrali di oggi, hanno il nucleare che è stato fatto 20 anni fa e che costa molto meno del nucleare nuovo, e quindi hanno intrinsecamente un costo di produzione dell'energia più basso e quindi un prezzo dell'energia più basso del nostro. Sul nucleare voi ci sarete? Ma non possiamo non esserci, vede, quando si prendono decisioni sul mix energetico di un paese o di un'azienda, bisogna avere una mentalità che abbraccia un lungo periodo di tempo, 20, 30, 50 anni nel caso del nucleare. Ora, il nucleare è una fonte di produzione che ha un costo essenzialmente fisso, pari all'ammortamento dell'investimento che viene fatto. Poi per 50 anni hai il costo della manutenzione, ma il combustibile ha un peso quasi irrilevante sul costo totale della produzione. Quindi se guardi 50 anni, avere una parte del tuo costo come costo fisso è sicuramente una cosa saggia da fare sia per un'azienda che per un paese. Ecco, guardando appunto al futuro, magari un po' non così lontano, ma più vicino, le prospettive di Edison restano prospettive comunque di crescita. Sicuramente, noi siamo sul mercato nazionale stabilmente il secondo produttore. Siamo in un momento di crisi generale per quanto riguarda l'industria e anche l'industria elettrica e del gas. Durante le crisi ci sono delle opportunità. Ecco, se ci saranno delle opportunità da cogliere per consolidare ulteriormente e crescere sul mercato italiano, per rafforzare ancora la nostra struttura, beh, sicuramente la Edison sarà uno dei consolidatori e non ci lasceremo scappare l'opportunità. Grazie, buon lavoro. Allora Umberto Quadrino, che è stato con noi questa domenica, si chiude qui la nostra puntata di incontri. Ringrazio Filippo Reggi in regia, Dita Padizza in redazione, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Ancora, buona domenica.